Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di Enrico Pagliarini. Ed eccoci anche questa settimana, benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23 con una breve replica domenica alle 13:10 e come sempre con una ricca versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Come sempre iniziamo da alcune notizie che abbiamo letto, intercettato durante la settimana e condensato nelle nostre digital news. Digital News. La prima notizia riguarda SpaceX. Con il lancio di questa settimana da Cape Canaveral, la società di Elon Musk ha messo in orbita altri 60 satelliti della costellazione Starlink, che punta a fornire connettività internet in tutto il mondo nei prossimi anni. Ora la costellazione ha raggiunto i 775 satelliti e, secondo Elon Musk, inizieranno a breve in Nord America, almeno in una fascia a confine con il Canada e forse anche nel Canada del Sud, i primi test con i primi clienti. La commercializzazione dei primi servizi dovrebbe partire quando la costellazione raggiungerà i 1500 satelliti, quindi grosso modo tra un anno e mezzo, poi dipende anche dal ritmo di lancio di questi satelliti, che vengono lanciati 60 alla volta. Starlink ha un'autorizzazione per lanciare fino a 12.000 satelliti. Ricordiamo che per ricevere il segnale sarà necessaria una piccola antenna che guarda il cielo, ma comunque insomma avremo tempo per tornarci sopra. Parliamo di alcune startup, ci sono stati finanziamenti interessanti questa settimana, direi molti, ma ne abbiamo selezionati solo alcuni. GoPuff, che è una startup americana che fa consegna a domicilio, nata a Philadelphia. Consegna a domicilio in meno di 30 minuti, 24 ore su 24, consegnano piccoli oggetti, medicine, alcolici, piccoli prodotti come cibo confezionato. Ha raccolto altri 380 milioni di dollari, portando a 1,35 miliardi di dollari i finanziamenti raccolti finora. La società opera in circa 500 città ed è valutata 3,9 miliardi. Stesso settore ma nome più consolidato, Instacart, che consegna a domicilio prevalentemente generi alimentari in oltre 5.000 città americane, ha raccolto altri 200 milioni di dollari, facendo lievitare il valore dell'azienda a 17,7 miliardi. Instacart funziona come supermercato 24, dove opera in Italia forse è conosciuto, con commessi che vanno a fare la spesa nei negozi affiliati alla piattaforma per conto di chi ha ordinato online e consegnano la spesa a casa. Uncork, una startup che produce una soluzione per creare applicazioni senza uso di codice, quello che i tecnici, gli esperti chiamano No Code Platform, ha raccolto 207 milioni di dollari con una valutazione che supera i 2 miliardi. Questo è un trend che stiamo osservando da qualche anno, comunque è sicuramente interessante quello del No Code. Su internet trovate molta documentazione. Uncork ha un bellissimo video di un'oretta che racconta qual è la differenza tra il no code e il low code. MessageBird, un'altra startup, ha raccolto 200 milioni con una valutazione di 3 miliardi. MessageBird ha una soluzione di comunicazione per i consumatori, cioè chi vende al consumatore finale, che integra voce, messaggi di testo e anche chat. Un'altra startup si chiama Boom Supersonic, boom dal suono che si sente quando un aereo supera la barriera del suono. Questa società ha presentato il primo prototipo volante che dovrebbe portare alla fine di questo decennio alla costruzione del primo aereo commerciale supersonico per passeggeri dopo il Concorde. Il prototipo si chiama XB-1, ospita un solo pilota e inizierà a volare, se tutto va per il verso giusto, il prossimo anno. Boom ha raccolto finora 160 milioni di dollari, ha ricevuto preordini da Virgin e anche da Japan Airlines. Probabilmente sono ordini pre-Covid, vedremo cosa succederà nei prossimi anni, ma questi hanno un programma a 10 anni, quindi insomma avremo tempo per tornare a commentare. Parliamo di Waymo, la divisione di Google specializzata in sistemi di guida autonoma che estenderà a tutti coloro che vorranno utilizzarlo il proprio servizio di robotaxi in un'area di Phoenix in Arizona. Finora questo servizio era riservato ad un ristretto numero di persone e finora molte delle auto avevano comunque una persona a bordo. Invece adesso gradualmente le persone non ci saranno più il pilota d'emergenza, chiamiamolo così, e uno con la propria app chiama il taxi automatico che arriva e lo porta a destinazione. Ci sono sempre crescenti problemi per Huawei, un po' in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, ovviamente, ma anche in Europa. L'ultima notizia riguarda la Commissione Difesa del Parlamento britannico, che ha dichiarato di avere chiara evidenza che Huawei è collusa con il governo cinese e che il Regno Unito dovrà rimuovere tutte le apparecchiature Huawei prima di quanto pianificato. Un'ultima notizia riguarda una startup italiana che avevamo intervistato qualche mese fa, magari andate a riascoltare quell'intervista. Epicura, che è specializzata in consulti o visite mediche in videoconferenza e anche assistenza domiciliare, ha raccolto altri 2 milioni. Non sono soldi che arrivano da Venture Capital, 1,5 milioni è arrivato come finanziamento bancario e 500.000 euro dal bando di Finpiemonte a fondo perduto destinato proprio alle startup tecnologiche che abbiano già raccolto sul mercato capitale di rischio. Lo scorso anno Epicura aveva raccolto 1 milione. Allora, la mia settimana è iniziata con un'allerta dell'app Immuni sul mio telefono. Ho fatto subito 2 cose, dopo pochi secondi così di smarrimento, ho ricostruito la mia giornata, visto che io tengo attivati tutti i servizi di geolocalizzazione, insomma sono molto digitale. Ho ripercorso i luoghi che ho visitato, ricostruito le telefonate, magari messaggi, email, insomma ho capito per filo e per segno che cosa avevo fatto, quindi ho capito che durante la giornata che l'app mi indicava come quella in cui avrei avuto un contatto a rischio, c'è stato solo un luogo dove sono stato, dove potrei essere stato, ma sicuramente lo sono stato visto che l'app mi ha avvisato, sono stato a meno di 2 metri per almeno 15 minuti, che questo è il limite che utilizza l'app per scambiare i dati con gli altri telefoni. Anche se ero abbastanza certo di non aver tenuto comportamenti a rischio, ho comunque chiamato il medico e poi l'ASL, come mi ha indicato il medico, ho fatto insomma quello che mi indicava l'ASL. Ho fatto il tampone dopo 2 giorni, il terzo giorno ho ricevuto l'esito negativo. Ho fatto tutto, ero lunedì in Emilia-Romagna, quindi ho fatto tutto in Emilia-Romagna, in provincia di Modena, dove ho una casa dove ogni tanto sto. App Immuni, che comunque io vi consiglio sempre di scaricare, utilizzare, tanto la mettete lì in background se non avete un telefono particolarmente datato che può installare l'app, ma appunto magari soffre un po' di batteria, insomma non ci sono problemi. Tra l'altro l'app Immuni dal 19 ottobre sarà collegata con le altre app simili in Europa. Questo vuol dire che se andate, che ne so, in Germania, in un altro paese dove c'è un'app simile che fa parte del network europeo e state vicino ad una persona per meno di 2 metri, almeno 15 minuti, che poi risultasse positiva, anche se quella persona è in un altro paese, i sistemi sanitari sono collegati, quindi i codici anonimi casuali che queste app si scambiano vengono poi scambiati da tutte le applicazioni. Comunque, magari ne riparleremo, io poi sul Sole 24 Ore Online farò un piccolo resoconto e poi lo pubblicizzerò anche su Twitter. Cambiamo argomento, parliamo di TV. Molte famiglie forzate o consigliate di stare in casa in quasi tutto il mondo hanno pensato che fosse una buona idea cambiare il televisore. Allora, secondo gli ultimi dati di TrendForce, relativi al trimestre luglio-settembre, quindi quando la gente ha potuto uscire, segnano il record storico di vendite a livello globale, ben 62 milioni di pezzi. La crescita su base annua è di quasi il 13%, anche se l'anno, questo 2020, dovrebbe chiudersi sulla parità, perché insomma prevedono di non vendere molto in questa ultima parte dell'anno. Comunque il primo produttore mondiale rimane Samsung, seguito da LG e dalla cinese TCL. Ma al di là dei numeri, in molte case c'è un televisore o più di un televisore che potrebbe essere non aggiornatissimo, e una soluzione potrebbe essere accoppiare questo televisore ad una chiavetta, o meglio viceversa, una chiavetta al televisore. Chiavette come quelle appena aggiornate, presentate da Google, da Amazon, oppure come la Apple TV o altri prodotti. Alcuni le chiamano chiavette per TV, altre le chiamano stick, set-top box. Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Ciao Enrico e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Beh, innanzitutto come li chiamiamo questi prodotti? Beh, è difficile, potremmo chiamarli in tutti questi modi, potremmo chiamarli media streamer, quindi oggetti che ci fanno vedere dei contenuti che tipicamente arrivano dalla rete, quindi sono normalmente contenuti in streaming. Sono delle sorgenti a tutti gli effetti, quindi come se fosse un Blu-ray disc player, un DVD player, console game. È un oggetto, seppur molto piccolo, che si attacca a uno degli ingressi HDMI del TV e quindi diventa una sorgente che si seleziona dal TV e ci permette di vedere delle cose, di fare delle cose, vedremo adesso quali. Da tanti anni parliamo di smart TV, quindi di televisori che ormai hanno una piattaforma con delle applicazioni che ci permettono di vedere contenuti che arrivano dalla rete internet. Allora uno potrebbe domandarsi: ma a che cosa mi serve infilare nella porta HDMI del televisore, dietro al televisore, una di queste chiavette? Beh, Enrico, noi abbiamo una tara, che è quella di parlare sempre di prodotti nuovi e di provare, parlo per me e tutti i ragazzi che lavorano con me in D-Day, provare tutti i prodotti nuovi, quindi televisori nuovi. I televisori nuovi hanno oramai tutti la piattaforma Smart TV, chi più bella, chi più brutta, ma oramai le app sono la regola, e quindi noi proviamo questi TV che hanno, basta pensare tutto sommato che oramai quanti contenuti vengono visti in streaming, e tutti questi contenuti, che siano di Netflix, Amazon Prime Video, che sia DAZN, vengono tutti, o anche RaiPlay, vengono tutti visti attraverso delle app che sono all'interno dell'ambiente Smart TV. Ecco, c'è un piccolo problema però, che questi ambienti Smart TV sono degli ambienti software, dei sistemi operativi, che i produttori di TV, diciamo così, lo diciamo bonariamente, si dimenticano di aggiornare con frequenza, e soprattutto quando il prodotto incomincia ad avere più di un annetto. Diciamo che abbiamo visto degli aggiornamenti interessanti con nuove funzioni su TV di un anno, di due anni di vita, ma di più no, ma un TV ovviamente dura molto di più di due anni. E quindi cosa succede? Che anche chi ha comprato un TV già nell'era della Smart TV probabilmente incomincia a avere dei buchi. Cosa vuol dire dei buchi? Cioè mancano delle app. Da alcuni ambienti un po' più datati il produttore dell'app cancella l'app a un certo punto. Perché? Perché ritiene di non doverla più manutenere per quella piattaforma, e incominciano ad esserci i problemi. Manca l'app di Chili, manca l'app di Netflix, manca l'app di YouTube, o non funziona più bene. E questo è il limite, classico limite, di tutti i prodotti 2 in 1, perché un TV con l'ambiente Smart TV è un 2 in 1. C'è la parte display, TV televisiva tradizionale, e la parte smart, che sono integrate, comodissimo, un telecomando solo, tutto insieme. Ma sappiamo che poi quei tipo di prodotti invecchiano alla velocità del componente a più rapida obsolescenza, e quindi ci si ritrova tantissime persone già con delle smart TV che non fanno tutto quello che vorremmo. Come fare allora? Beh, si compra uno di questi aggeggini, li si infila in un ingresso HDMI e di colpo il TV, diciamo nel suo insieme, recupera tutte le funzioni estesi, diciamo, all'ultimo aggiornamento. Tra l'altro, la cosa singolare è che questi oggetti, questi set-top box, questi streamer, vengono sì aggiornati molto più frequentemente, quindi è molto più facile che vengano tenuti aggiornati questi prodotti che il TV stesso. E quindi, per assurdo, uno con un oggetto di questo tipo risolve il problema adesso e probabilmente anche negli anni a venire. Beh, anche perché questi prodotti vengono realizzati e proposti dai soliti nomi che da un lato erogano i più importanti servizi su internet e dall'altro realizzano, o comunque alcuni di questi grandi produttori, elettronica di consumo, prodotti di grande successo come gli smartphone. Parliamo di Apple, Google, Amazon, i principali, che sono abituati agli aggiornamenti software, mentre le piattaforme delle Smart TV vengono aggiornate dai produttori dei televisori che non sono così abituati. Sì, sono un po' meno abituati al software. E poi va anche detto, e lo diciamo per chiarezza prima che qualcuno anche tra l'altro ci dica di trascurare questi aspetti, non va dimenticato che queste apparecchi, queste chiavette, di fatto segnano un po' il bacio mortale con una di queste piattaforme. Non è un matrimonio, perché costano poche decine di euro e quindi si può anche decidere di buttarla via e di cambiarla, ma quando io scelgo una Fire TV Stick di Amazon entro nell'ecosistema Amazon, ci si fa login con un account Amazon, e lo stesso vale ovviamente per la soluzione di Google. E lo stesso vale per la soluzione di Apple, cioè si entra nell'ecosistema. Quindi è anche vero che i produttori di questi box in qualche modo sono propensi anche a vendere a prezzi molto convenienti questi oggetti in cambio dell'acquisizione certa di un utente. Sappiamo che con questi colossi, soprattutto Amazon e Google, un po' meno per Apple, ma comunque anche lì c'è ovviamente un interesse ad aderire all'ecosistema, c'è un piccolo scambio più o meno cosciente da parte dell'utente, i propri dati in cambio di un servizio. Devo dire che se guardo i prezzi di alcune di queste soluzioni, c'è anche da stupirsi che in quel prezzo ci sia tutto l'hardware che viene dato, perché il valore percepito quantomeno sarebbe assolutamente superiore. Quindi è chiaro che sono prezzi che già tengono conto in molti casi del fatto che poi si aderisce a un tale ecosistema, e quindi questa cosa va detta comunque con chiarezza, con più chiarezza di quanto la gente lo percepisca. Ecco. Sì, sì, Gianfranco, molto corretto. Senti, questi prodotti come funzionano? Hanno un telecomando? Devo usare lo smartphone? Come faccio ad interagire? Ecco, qui c'è un primo bivio importante. Molti che ci stanno ascoltando, negli anni passati hanno adottato una soluzione simile di Google, che si chiamava Chromecast. Chromecast era una delle soluzioni anche più economiche, tra le altre cose, ed aveva un funzionamento simile per quello che abbiamo descritto fino adesso. Quindi si infilava in una presa HDMI, non vanno confuse queste chiavette, diciamo, con le chiavette USB, che sono chiavette di memoria, non c'entra niente. Hanno anch'esse normalmente una presa USB, che uno potrebbe equivocare, devo attaccarla, funziona via USB, ma la presa USB è solo per l'alimentazione. Quindi quello che succede normalmente, si attacca dietro al TV alla presa HDMI per far vedere i propri contenuti, e anche a una presa USB soltanto per alimentarla, così non c'è bisogno neanche di attaccarla alla corrente. Ecco, Chromecast, che funzionava precisamente così, in realtà non ha un telecomando, il Chromecast storico, e si pilota interamente dallo smartphone, ovvero io vado su un'app sullo smartphone, mi piace quel contenuto, decido che voglio vederla sul TV, e invece di vederlo sullo smartphone posso decidere di inviarlo a un Chromecast che è già collegato e configurato sulla rete. A quel punto la mia Chromecast, quindi la mia chiavetta, trasmette quel contenuto, che non va in realtà dallo smartphone alla chiavetta e poi sul TV. Semplicemente do ordine alla chiavetta di scaricarlo lei direttamente, poi lo smartphone posso anche spegnerlo. Ecco, questo in realtà funziona, però nel tempo si è visto che non è comodissimo, perché insomma, cercare sul telefono sì, può essere anche un'opzione, però siamo più abituati al telecomando, e soprattutto viene meno un'interfaccia che mi aiuti a scegliere. Oramai Netflix da questo punto di vista ha fatto scuola delle interfacce. Se noi vediamo anche gli ambienti Smart TV, ma tutti questi ambienti oramai assomigliano molto a Netflix, la stessa Amazon Prime Video, quindi delle proposte iniziali più grandi, tutte queste strisce con tutte le miniature a immagini e non a testo, non solo a testo, dove i contenuti sono raggruppati per generi o per diciamo tipi omogenei, quindi serial, quindi film, eccetera, eccetera, e si naviga poi in verticale e in orizzontale con un telecomando. Ecco, Chromecast da questo punto di vista non aveva un telecomando, non aveva questa interfaccia ed era un po' perdente. Per questo motivo Google ha rivisto, ma questo sono notizie dell'ultima settimana praticamente, ha rivisto il proprio Chromecast, adesso si chiama Chromecast con Google TV. La logica di collegamento è sempre la stessa, la differenza è che c'è il telecomando, come peraltro c'era anche già e c'è ancora nelle Amazon Fire TV Stick, sia quelle vecchie ma anche quelle nuove. Quindi oramai direi che giudicherei archiviato la tipologia del Chromecast vecchio senza telecomando, e di qui in poi tutti questi oggetti hanno un proprio telecomando. In alcuni casi, e parlo dei ultimissimi prodotti di Amazon ha anche prodotto un cubetto che invece non va sempre attaccato all'HDMI, ma non resta dietro il TV, viene messo davanti o di fianco al TV, e questo cubetto ha anche un emettitore a infrarossi, il che permette cosa? Per esempio di usare quel telecomando anche per comandare il TV, anche per comandare il DVD player, anche per comandare altri prodotti che si interfacciano a infrarossi, come fanno tanti prodotti che hanno appunto la funzione di telecomando universale. Ma comunque sia, diciamo che ormai nella normalità questi oggetti hanno il proprio telecomando che permette la navigazione in un'interfaccia grafica, quindi in un set box, come siamo stati abituati per esempio, per chi ce l'ha o ce l'ha avuta, con un Apple TV ha il proprio telecomando, la propria interfaccia da sempre. Abbiamo citato Chromecast con Google TV, il nuovo ambiente smart di Google, abbiamo citato le Fire Stick di Amazon, poi c'è Apple TV che ha una forma diversa, comunque è ovviamente uno di questi prodotti. Quali sono gli altri? Beh, allora ci sono tante soluzioni, alcune sono di anche aziende meno grandi e meno famose, ma di fatto si appoggiano sull'ambiente Android TV, quello che adesso si chiama Google TV, ma di fatto è Android TV, quindi sono la stessa persona, ha cambiato nome. Quindi sono chiavette prodotte da una miriade di produttori che replicano di fatto l'ambiente Android TV, quindi facevano quello che adesso incomincia a fare questa Chromecast con Google TV ufficialmente, quindi come prodotto di Google. Ne esistono molti, esistono anche delle altre soluzioni, una diciamo diffusa perché molto utile e favorita per chi si abbona a Now TV, che è il servizio di streaming del gruppo Sky, di fatto, è proprio la Now TV Stick, che è una chiavetta HDMI come quelle che abbiamo descritto, col suo telecomando, che si basa sulla piattaforma Roku, che da noi non è diffusa, mentre negli Stati Uniti è un player importantissimo, e praticamente qui abbiamo l'app ottimizzata di Now TV, quindi possiamo vedere tutti i contenuti praticamente di Sky via streaming, e poi alcune app tra le più diffuse. Però è una stick un po' meno versatile e programmabile rispetto alle altre, quindi è un pochino un ambiente un po' più chiuso. Dopodiché ci possono essere anche degli altri box specifici, ma direi che con l'ambiente Android, con l'ambiente Amazon e con qualche altra soluzione, vabbè, Apple abbiamo detto, poi con qualche altra soluzione di Android TV abbiamo più o meno visto tutto il mercato. Devo dire anche che è difficile aver voglia di uscire da questi prodotti perché, come dicevamo, i prezzi di alcuni di questi sono talmente convincenti che si rischia veramente di andare a spendere di più per aver di meno. Senti, a proposito di prezzi, ci dai un'idea e ci dici anche perché Apple TV costa di più. Certo, Apple ha sempre un posizionamento diverso dagli altri. Mi verrebbe da dire che il posizionamento di prezzo dell'iPhone non è lo stesso della stragrande maggioranza telefoni Android. E quindi metà della risposta viene da lì. L'altra metà viene dal fatto che comunque Apple TV, che cioè, è disponibile in diverse versioni, ma diciamo a prezzi anche diversi, però ha un po' più di memoria integrata normalmente, quindi permette di memorizzare dei contenuti a bordo, perché poi diventa anche, come dire, la centrale della home automation in chiave Apple, quindi di HomeKit, e quindi può governare tutti gli apparecchi HomeKit in mancanza anche di qualsiasi altro apparecchio Apple, permette di controllare la casa da remoto, eccetera eccetera, alcuni vantaggi. Apple TV funziona, è la soluzione ideale per chi ha bisogno, o meglio utilizza, aderisce già all'ecosistema Apple. Chi non ha alcun prodotto Apple, a nostro avviso, dovrebbe guardarsi attorno verso altri prodotti anche più economici, non ha grandi vantaggi, perché per esempio un'unicità di Apple TV è il fatto di poter replicare lo schermo di MacBook, di iPhone, di iPad sul TV via Wi-Fi con un tocco, in maniera semplicissima, attraverso il mirroring AirPlay. Ecco, chi ha quindi uno di questi prodotti, beh, può avere grande comodità per far vedere un contenuto agli amici, per navigare su web usando il TV, eccetera eccetera, potrebbe avere comodità di usare questa funzione. Ma chi non ha questi prodotti, per esempio, questa funzione non la usa. Va detta che questa funzione di mirroring è integrata oramai anche negli ultimissimi TV, parlo degli ultimi anno e mezzo, diciamo, la funzione Apple TV è già integrata nelle smart TV dei principali marchi. Dopodiché, invece, tornando, venendo al discorso dei prezzi che mi dicevi, beh, la partenza è terribilmente convincente. La Fire TV Stick Lite, che sì, ha delle limitazioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi funziona molto molto bene, non ha il Dolby Atmos come audio, ma insomma poche differenze, parte da 29,99, da 30 euro, in mancanza di offerte speciali che magari tra Prime Day, Black Friday e promozioni varie arriveranno anche. Quindi il punto d'ingresso sono 30 euro. Sì, è molto basso. Sì, che se poi ci spostiamo su quella non light, quella normale, arriviamo a 40, o la versione 4K, che è consigliabilissima per tutti quelli che hanno TV 4K, così possono vedere contenuti in 4K, che costa 59,99, quindi 60 euro. Beh, Google è poco sopra. Un pochino di più la soluzione di Google, che per il momento è in pre-order, perché è stata proprio annunciata da poco, è 69,99, ma anche qui immaginiamo che arriverà qualche sconto. Certo, uno con 60-70 euro, nel caso di Google, trasforma un TV magari perfettamente funzionante ma un po' adattato in un TV di ultimissima generazione. Non scordiamoci, per esempio, che l'ambiente Android TV viene usato, che so, da produttori importantissimi TV, Sony per esempio, cioè gli smart TV Sony sono in ambiente Android TV. Vuol dire che io aggiungo questa spesa a un TV magari datato e lo trasformo, non per quello che riguarda magari la qualità video, non per quello che riguarda altri fattori, ma per quello che riguarda la parte smart, lo trasformo in un TV di ultimissima generazione. È un bel salvavita per dei TV che ancora magari hanno da dire la loro e non devono essere mandati a recupero o non devono diventare RAE solo perché non sono più adatti per vedere Netflix, per vedere YouTube o per vedere Amazon Prime Video. Insomma. Sì, senti, questi prodotti essi stessi invecchieranno, quindi immagino che a un certo punto uno li dovrà cambiare. Certo, non è come cambiare tutto il televisore. Sì, invecchiano, ma invecchiano meno, lo dicevamo, sono più aggiornati. Quando noi teniamo conto che l'utilità di chi li produce e li vende non è soltanto quella di vendere un prodotto, forse mi verrebbe quasi da dire non è affatto quella di vendere un prodotto hardware, ma è quella di coinvolgerti in un ecosistema, è chiaro che il produttore in questo caso ha tutto l'interesse di tenere aggiornato il proprio hardware per far sì che l'utente continui a essere in quell'ecosistema prima che gli salti in mente a un prodotto eccessivamente invecchiato di mollarlo e magari passare a una piattaforma concorrente. Ecco, quindi vorrebbe dire per loro perdere un utente importante. Quindi è chiaro che questi prodotti partono innanzitutto con la dotazione hardware che già prevede un percorso di sviluppo futuro e quindi diciamo i progettisti si riservano un po' di capacità di elaborazione in più rispetto a quella che serve oggi per implementare eventuali funzioni future, e questo è già un primo fattore chiave. E poi c'è il discorso che faranno di tutto per tenere il prodotto aggiornato per evitare appunto che questo venga dismesso. E questa è, come dire, un'ottica win-win, una bella garanzia per l'utente che sa che il prodotto quando verrà abbandonato è perché proprio non c'è più possibilità di tenerlo in vita o le funzioni che sono diventate oramai di moda, sono diventate standard, non sono implementabili su quel prodotto. Ti faccio una domanda molto banale ma anche molto concreta guardando la situazione di molte case. Se ho finito gli ingressi HDMI del televisore, esistono degli sdoppiatori o le triple per HDMI? Questo è il problema, perché i TV hanno, diciamo, parliamo di TV da salotto, quelli di una certa dimensione, a seconda della classe del prodotto, 3 ingressi HDMI o 4 ingressi HDMI, generalmente, non di più. 3 ingressi HDMI sono tanti, ma potrebbero anche essere pochissimi. Perché? Perché magari abbiamo, non so, un decoder di Sky, oppure un DVD player, un Blu-ray displayer, un altro decoder satellitare TV Sat, una console game. Beh, oppure se ho un TV un po' vecchiotto, magari ho già acquistato un decoder per prepararmi per lo switch off del digitale terrestre, quindi uno l'ho già occupato con quello. Anche quello, anche chi dovrà, vuole adeguare il proprio TV con un decoder alle scadenze che arriveranno di switch off e vuole farlo senza cambiare il TV, deve sapere che dovrà dedicare un ingresso HDMI al decoder. Ecco, messi insieme tutti questi pezzi abbiamo già visto che le 3 e forse anche le 4 prese sono già finite in molti scenari e questo è il vero problema. Due strade davanti, una costosa e macchinosa, quella di interporre tra le proprie sorgenti e il TV un amplificatore, un theater, che vuol dire magari mettere anche le casse se possibile, e quindi gli amplificatori di un theater hanno normalmente 6, 7, 8 ingressi due uscite, un'uscita, due uscite, quindi a quel punto io entro con tutti i segnali nel mio amplificatore e dall'amplificatore vado nel TV, ma certo è una scelta complessa, costosa e d'impatto anche ambientale, perché devo poi distribuire anche i diffusori e le casse. Certo, non sento più male dal TV, sento bene dal mio impianto home theater, ma insomma non è certo la soluzione per il problema che mi hai posto. La soluzione potrebbe essere, ma devo dire siamo molto indietro da questo punto di vista perché le cose che ci sono non sono bellissime, di avere una sorta di switcher, quindi chiamiamola una ciabatta HDMI. Ovviamente io posso avere tanti ingressi e un'uscita e gli ingressi vanno selezionati. Come? Con un tasto sul frontale è impensabile. Cos'è? Ogni volta che voglio andare, non so, sulla mia chiavetta Amazon o Google, dovrei alzarmi e andare a schiacciare il pulsante giusto sullo switcher, scomodissimo. Alcuni di questi hanno un telecomando e quindi abbiamo già detto qual è il limite, l'ennesimo telecomando. Quindi questo è il vero limite. Se tutto va in queste direzioni e se qualcuno magari vuole avere, visto che alcune app qua e là sono esclusiva di una piattaforma piuttosto che di un'altra o mancano su una tal piattaforma, e uno magari vuole avere sia l'Apple TV che la Chromecast con Google TV. Ecco, già sono partite due ingressi HDMI. Insomma, è un mondo, come sempre, ahimè, più complicato, anche quando è semplice, è più complicato rispetto alle aspettative lecite degli utenti. Gianfranco, grazie per essere stato con noi. Come sempre, a presto. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori. Adesso per noi c'è una breve pausa. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica per realizzare questa puntata che come sempre trovate anche in versione podcast, una ricca versione podcast che chiamiamo Super Podcast sul nostro sito internet, la nostra applicazione, l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia oppure le principali piattaforme di audio on demand a partire da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le altre, ce ne sono veramente molte molte. Potete contattarmi scrivendomi su Twitter, Facebook o LinkedIn. Bene, adesso parliamo di e-commerce, un aspetto molto importante anche per la nostra economia, ma anche per noi come consumatori. Saluto Roberto Liscia, che è il presidente del consorzio Netcom, che si occupa del commercio elettronico in Italia. Bentornato a 2024. Grazie, ed è un piacere essere di nuovo con voi. Partiamo da alcuni numeri che avete appena pubblicato, alcuni numeri che descrivono quello che è successo negli ultimi mesi e quello che sta succedendo, come sta cambiando il commercio elettronico. Ovviamente la situazione che stiamo vivendo ha messo sotto pressione le aziende, ma è stata anche una grande opportunità perché molte delle aziende che già da tempo erano preparate per vendere con i canali digitali hanno cresciuto il proprio giro d'affari, il proprio business. Che numeri avete rilevato? Ma una cosa molto interessante è che il periodo del lockdown ha fatto accelerare la crescita del consumo digitale nel nostro paese di almeno 5 anni in pochi mesi. Abbiamo fatto una rilevazione periodica in questo periodo e abbiamo rilevato che più di 2,6 milioni di nuovi consumatori si sono avvicinati all'online, sia per senso d'urgenza, sia perché ovviamente i negozi erano chiusi. Ma la cosa più interessante di questi 2,6 milioni, che rappresentano però ovviamente molto, quasi 5 milioni di famiglie, perché in realtà poi si sono comprati soprattutto alimentari, è che alla nostra domanda cosa farete dopo, più del 30% hanno detto noi continueremo a comprare online, oltre che naturalmente a comprare offline. Quindi c'è stata una crescita numerica nel settore poi dell'alimentare, c'è stato un raddoppio addirittura dell'utilizzo del canale digitale, in alcune settimane addirittura si sono moltiplicati per 3 i volumi di affari dell'acquisto online, perché ovviamente diciamo il lockdown ha spinto ancora di più sui prodotti alimentari e della salute. E la cosa interessante è che sono cambiati non soltanto diciamo i numeri, come dicevo prima, in termini di quantità di italiani, volumi comprati, ma sono cambiate anche le modalità di delivery. Per esempio nell'alimentare si è moltiplicato per 3 il numero di transazioni che poi ha portato un consumatore italiano a fare quello che si chiama tecnicamente il click and collect, cioè io compro e poi vado a ritirare la merce in un punto, in uno spazio messo a disposizione dal retail in un'ora precisa, addirittura senza avere poi contatti con il commesso, quindi contactless, quello che ormai viene chiamato il contactless delivery, per in qualche misura mutuare quello che viene detto nel pagamento, il contactless payment. Quindi numeri importanti, ma soprattutto un cambio di stato dell'Italia, che ha visto gran parte degli italiani ancora oggi tradurre e portare la casa a diventare il luogo totalizzante per la formazione, per l'entertainment, per l'acquisto, per il consumo, per la ristorazione. Quindi sono cambiati in maniera profonda i meccanismi sia sociali che comportamentali che di consumo. Giusto per orientarci, ad oggi fatto 100 il mondo del commercio in Italia, del cosiddetto retail, gli esperti parlano di retail, qual è la percentuale di e-commerce, di commercio elettronico? Ma fatto a 100 il totale siamo tra il 7 e l'8%, quindi sta diventando una cifra significativa nel senso che ovviamente ci sono grandi difformità, si supera il 30% nell'elettronica, si va a circa l'1,5% nell'alimentare, quindi le cifre sono molto diverse a seconda dei settori merceologici. Facendo una grande, un grande medione, siamo all'intorno del 7-8%. Questo però vuol dire che c'è ancora un margine di crescita molto elevato, e qui ti sollecito su un punto che tu spesso sottolinei e che io condivido molto: ci sono ancora oggi tantissime opportunità, e forse non tutte le aziende che sono anche eccellenti nell'offline hanno capito l'online. Questo è verissimo, tant'è che sappiamo perfettamente che negli anni, diciamo, i muri sono stati anche un ostacolo. Le reti distributive sono state un ostacolo, per cui si aveva paura a in qualche misura sviluppare il digitale per paura di perdere i clienti nell'offline, e soprattutto di perdere quella che è le vendite d'impulso. Io vado in un punto di vendita, sono lì e compro anche qualcos'altro. Quindi c'è stata questa reticenza che ha portato ad un certo ritardo che piano piano si sta stemperando, nel senso che dalle nostre ricerche risulta che la grande distribuzione organizzata, sia alimentare che non alimentare, oggi sta entrando prepotentemente nel settore delle vendite digitali, con la logica che ormai viene tecnicamente chiamata della omnicanalità, nel senso che non vendo solo in maniera digitale, nel senso che il meccanismo dell'e-commerce era nato come un negozio alternativo rispetto al negozio fisico. Oggi invece si è capito che il tema non è fare un negozio, il tema è servire il cliente con tutti i canali, con tutti i mezzi che l'azienda può mettere a disposizione. Quindi anche la grande distribuzione si è avvicinata in maniera significativa. Noi abbiamo fatto un'analisi su circa 40.000 punti di vendita in Italia e vediamo un trend veloce di risposta a questa evoluzione digitale. Ma la cosa interessante che è successa durante il lockdown è stata la digitalizzazione dei negozi. Decine e decine, centinaia di negozi hanno abbracciato il digitale, prima per senso di urgenza, perché hanno dovuto chiudere i ristoranti, il verduriere, il fiorista, e quindi non c'erano alternative. Ma oggi questi negozi che hanno riaperto continuano ad utilizzare le facilities, le capacità, le tecnologie che hanno messo in campo durante il periodo del lockdown, perché in qualche misura hanno capito da un lato che potevano servire meglio il cliente, e il cliente ha capito dall'altro che potevano avere una doppia scelta: vado nel negozio o compro a casa. Senti, dal punto di vista tecnologico, visto che noi parliamo di tecnologia, quali sono le cose più nuove che state vedendo come osservatori privilegiati a contatto con molti player di questo mercato? Ma dunque, io a gennaio, prima del lockdown, faccio parte di questo NRF, National Retail Federation, e c'era questa grande fiera delle tecnologie in cui c'erano 40.000 partecipanti da tutto il mondo. E la cosa interessante è che se entravi in questa fiera potevi uscire con una sporta di tecnologie, cioè potevi uscire praticamente con un carrello di, non tanto le tecnologie di brochure, perché sennò ti ci voleva un container, ma stiamo parlando dai droni che possono consentire di verificare se gli scaffali sono pieni o vuoti e di cosa, e questi droni che si sollevano due o tre volte al giorno addirittura mandano le informazioni al sistema di contabilità e di gestione della logistica, fino ai sistemi di ottimizzazione della logistica e dei magazzini che, utilizzando motori di intelligenza artificiale, permettono di fare il picking, cioè il prelievo del prodotto, ottimizzando in qualche misura lo spostamento delle persone in magazzino, fino ad arrivare ai meccanismi sempre di intelligenza artificiale, di machine learning, che permettono di servire meglio il cliente, di orientarlo, anche perché dall'altra parte il cliente è diventato sempre più esigente. Se pensiamo nell'alimentare, il cliente, c'è il cliente vegano, c'è il cliente che non vuole la carne, c'è il cliente che non mangia proteine, c'è il cliente che vuole prodotti specialistici, e quindi stanno nascendo sempre di più motori di informazione formativa, di supporto, di sempre basati sul machine learning e l'intelligenza artificiale per aiutare il cliente a fare le sue scelte e a personalizzare anche il servizio e il prodotto al cliente. Quindi diciamoci francamente, la tecnologia che sta entrando in maniera rilevantissima è da un lato la robotica e dall'altro i meccanismi di machine learning, di intelligenza artificiale che si basano tutti sui dati per permettere ovviamente di accorciare i tempi, di migliorare il servizio, di personalizzare il prodotto e di servire meglio il cliente, ma soprattutto di accorciare la catena dei processi, perché il tema non è soltanto l'e-commerce nel senso del servire il cliente, ma anche l'e-commerce B2B, cioè di poter fornirsi dei prodotti in tempo per servire il cliente, tant'è che sempre di più stiamo andando verso una direzione in cui i merchant, cioè i venditori, ordinano il cliente sulla base del prenotato, dell'acquistato dal cliente, quindi la catena si sta facendo sempre più corta con i fornitori e con i venditori, e questo è permesso dalle tecnologie della logistica e dell'intelligenza artificiale. Quindi direi intelligenza artificiale a go-go anche per i piccoli, e in Italia da questo punto di vista è rimasta molto indietro, e l'altra grande direttrice di sviluppo è portare tutti questi servizi in cloud per evitare che i clienti, cioè gli operatori, l'industria, le aziende, i commercianti debbano approvvigionarsi e tenere in casa server, PC, oggetti in qualche misura che per loro sono spesso molto estranei. Quindi il fenomeno del cloud, che è mondiale, unito ai motori di intelligenza artificiale, stanno accelerando la trasformazione del settore. Il tutto naturalmente necessita di competenze. Il vero dilemma è come formare le competenze che servono per gestire queste risorse tecnologiche. Quindi anche in questo settore, nell'e-commerce, stiamo parlando ovviamente di competenze le più varie, c'è questo problema, perché questo me lo dicono tutti quelli dell'IT, cioè non troviamo persone formate adeguatamente. Questo è il vero problema centrale, infatti noi stiamo approntando un piano anche da presentare alle istituzioni, al governo e ai ministeri competenti, e metteremo sempre di più l'accento che il Recovery Fund e il Recovery Plan deve trovare in questi piani di utilizzo delle risorse finanziarie un capitolo fondamentale per formare le nuove competenze digitali, perché una delle cose che sappiamo perfettamente, abbiamo diversi indicatori, che chi investe nelle tecnologie digitali aumenta la sua produttività, aumenta la sua competitività, migliora le vendite all'estero, migliori margini, riduce i costi e ovviamente contribuisce alla competitività del sistema paese oltre che della sua azienda. Un'ultima considerazione su un altro tema di cui spesso Netcom tu parlate. Noi siamo un paese esportatore, stiamo approfittando dell'e-commerce per migliorare l'export, per aumentare l'export o no? La risposta è sì, sicuramente, ma in maniera insufficiente rispetto a quello che dobbiamo fare per valorizzare il Made in Italy. Noi sappiamo che siamo nei canali fisici un grande esportatore ed è questo che ci ha in qualche misura economicamente salvato finora. Lo spostamento sul digitale ci vede in ritardo nella competizione internazionale con i francesi, i tedeschi, gli stessi cinesi, gli americani. Quindi dobbiamo assolutamente accelerare questa trasformazione e soprattutto ancorarci e valorizzare il fatto che in questo momento nel mondo, noi abbiamo fatto un'analisi piuttosto approfondita, ci sono più di 400 marketplace B2B e B2C, e noi dobbiamo sapere ancorarci ad agganciarci a questi marketplace per raggiungere le aziende a cui vendere nel mondo e i consumatori a cui vendere nel mondo. Ma per far questo dobbiamo mettere a posto i processi. Faccio un esempio banale: dobbiamo avere le immagini di tutti i nostri prodotti in formato digitale. Dobbiamo sapere quali sono i prodotti che abbiamo in magazzino, dobbiamo avere un inventario digitalizzato tempestivo per poter sapere che cosa si può vendere attraverso i canali digitali a livello internazionale, e questo necessita di queste nuove figure di export digitale, che è una figura che deve conoscere i mercati, sapere come sfruttare le tecnologie e ovviamente avere quelle competenze tecnologiche per utilizzare questi nuovi canali. Grazie a Roberto Liscia per essere stato con noi, come sempre a presto. Grazie, grazie a voi e grazie a te. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. L'ultima parte di 2024 dedicata all'intelligenza artificiale, alla matematica che sta sotto l'intelligenza artificiale. Fabio Ferrari, fondatore di Amagamma, benvenuto a 2024. Grazie a voi. Senti, ti faccio subito una domanda su come tu, come voi, come azienda intendete l'intelligenza artificiale. Che cos'è per voi intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale a noi spaventa, nonostante noi lavoriamo proprio in quest'ambito che viene definito l'ambito dell'intelligenza artificiale, del machine learning. A noi spaventa perché collegato a questo termine c'è tutto un racconto legato abbastanza distopico a un futuro dove l'uomo verrà scalzato dagli algoritmi o dai robot. A noi piace di più parlare di algebra. L'intelligenza artificiale è un sottoinsieme dell'algebra e della logica, e quindi ci piace parlare più di algebra perché l'algebra è sempre stato uno strumento a supporto dell'uomo per leggere la natura che lo circonda. Avete cambiato recentemente il nome da Energy Way perché vi occupavate molto di matematica applicata a soluzioni per risparmiare energia, per rendere le aziende più efficienti, soprattutto energeticamente. Oggi vi chiamate Amagamma, quindi avete allargato un po' il quadro perché fate anche altro. Concretamente, che cosa si può fare con l'uso della matematica, del software nelle aziende, nella società, nelle città? Sì, noi abbiamo fatto un cambio di nome perché pian piano si è allargato il nostro raggio d'azione. Nel mondo energy abbiamo fatto tanta esperienza, un'esperienza molto utile perché i servizi energetici sono trasversali in tutte le aziende, quindi abbiamo avuto l'opportunità di entrare in aziende manifatturiere, in servizi, e poi pian piano passare sempre di più al business delle aziende o ad altri servizi, diciamo così, ausiliari all'azienda. E quindi abbiamo avuto la fortuna in questi anni di spaziare su tantissime applicazioni e abbiamo visto proprio la potenza di questi metodi matematici che possono essere integrati in qualsiasi mansione, in qualsiasi processo, che sia fisico o transazionale, e quasi proprio da non avere dei limiti. Cioè oggi il limite è il dato, è avere il dato e avere un'idea su come utilizzare il dato, però non vediamo ancora degli ambiti in cui non si possono applicare queste metodologie di supporto. Puoi farci degli esempi di cose che si possono fare? Ma un esempio è come riorganizzare la logistica di un'azienda, una grande telco che deve organizzare, quindi distribuire tutte le sue offerte sul mercato e anche gli apparecchi che vende, quindi tutti i telefoni che vende, e quindi è studiare meglio per ogni città come si comportano gli utenti in base al sesso, l'etnia, i gusti, le tendenze, i trend, e andare quindi a dare dei suggerimenti su come allocare meglio le varie offerte, e portando dei risultati concreti. Oppure un'altra applicazione che abbiamo fatto, molto sensibile per tutte le persone, è sul depuratore dell'acqua. Depuratore dell'acqua che quindi deve trattare tutte le acque reflue. Noi abbiamo realizzato un algoritmo, quindi senza nessun acquisto di hardware, ma solo lavorando sui numeri raccolti, tutti i dati, i segnali raccolti dal depuratore, abbiamo realizzato un modello matematico che va a ottimizzare il rendimento di depurazione, quindi con un impatto anche importante sull'ambiente, senza che venga realizzato nessun investimento fisico. Senti, noi da tantissimi anni ormai parliamo di big data, di business analytics, di sistemi per analizzare questi dati, per raccogliere dati, poi analizzarli per poi prendere decisioni, riorganizzare le catene produttive, fare tantissime altre belle cose nelle aziende. Forse molti si sbagliano a chiamare queste cose intelligenza artificiale, forse un po' esagerato, non siamo ancora arrivati in questa era, o comunque le applicazioni vere di intelligenza artificiale sono ancora molto poche. Sì, in effetti c'è molta confusione intorno a questa definizione. Come dicevo anche all'inizio, a noi piace parlare più di matematica, perché l'intelligenza artificiale sicuramente è un po' distorta. È raccontata anche forse a volte in modo volutamente eccessivo e enfatizzata in modo eccessivo da dei grandi player che sul mercato quindi hanno raccontato che gli algoritmi autoimparano come l'uomo, che sono cognitivi, e questi quindi dal nostro punto di vista non fanno altro quindi che aumentare un po' così la confusione, e in mezzo a questa confusione chiaramente si rischia dopo di confondere società che fanno solo software, società che fanno BI piuttosto che intelligenza artificiale. Quindi per noi diventa fondamentale non solo avere il dato, utilizzare bene il dato, ma anche raccontare come il dato poi viene trattato ed elaborato, per far capire la profondità che c'è dietro. Quindi per noi diventa fondamentale destrutturare l'intelligenza artificiale in un racconto che sia accessibile a chiunque. Senti, questi sistemi sono scalabili, molto scalabili, poco, o invece richiedono lavoro sartoriale azienda per azienda? Ecco, questa sarà la vera sfida, cioè rendere il più possibile, più che un prodotto, arrivare a realizzare delle soluzioni. Questa è anche la nostra sfida, perché ogni azienda, bene o male, ha un suo sistema di raccolta e gestione dei dati, ha un suo specifico processo produttivo, che casomai anche l'azienda confinante che fa lo stesso processo produttivo è diversa a livello di dati, e quindi c'è sempre bisogno di realizzare un qualcosa di sartoriale. L'obiettivo è quello di arrivare a creare delle soluzioni che siano configurabili su vari clienti, quindi avere come un nocciolo matematico uguale per tutti che venga poi adattato esportando. Questo sarà un po' l'obiettivo nei prossimi anni. Qual è la cosa più interessante che avete fatto voi e qual è la cosa più interessante che invece hai visto sul mercato? Sì, la cosa più interessante che abbiamo fatto noi dal mio punto di vista è cercare di rendere sensibile a tutti la matematica, e quindi abbiamo avuto l'intuizione di creare un team veramente multidisciplinare, dove il nostro responsabile della corporate identity è uno storico delle religioni, abbiamo una designer, una ragazza che fa grafica, e con dei matematici che assieme, questo team, cerca di rendere la matematica, come dicevo, comprensibile a qualsiasi interlocutore usando aspetti grafici e descrittivi. Perché, come ho anche fatto capire in un precedente intervento, è fondamentale che il nostro interlocutore apprezzi quello che c'è dietro a questo risultato, dal nostro punto di vista, per due motivi. Il primo, perché possa capire e quindi valorizzare il nostro lavoro, perché non è casomai uno semplice elaborato matematico, ma c'è tanta, tanta attività dietro. E quindi è anche per noi un orgoglio quando il nostro interlocutore capisce lo sforzo intellettuale che c'è dietro. Il secondo aspetto è perché nel nostro piccolo ci piacerebbe che i nostri interlocutori avessero anche loro una coscienza critica su questi metodi, che, come anche tu dicevi all'inizio, c'è il rischio che l'intelligenza artificiale sia qualcosa che allontani le persone e quindi crei una distanza tra lo specialista del dato e l'interlocutore. Ecco, un po' il progetto più bello è quando riusciamo a portare un risultato al cliente e far apprezzare al cliente il lavoro tecnico fatto, ma anche dargli la possibilità di avere un senso critico su quanto gli viene dato, così che anche lui possa essere partecipe di questo processo, evitando che diventi un esercizio di stile il nostro lavoro. Sul mercato trovo molto, personalmente, poi questa è una mia analisi, trovo molto interessante tutto quello che viene fatto per le auto a guida autonoma. Tutto il lavoro che c'è dietro, gli investimenti che ci sono, stanno portando dei progressi a cascata sulle tecnologie che poi vengono adottate anche nelle imprese. Quindi è un po' come, non so, una volta era forse, ancora oggi così, il settore bellico piuttosto che aerospaziale, dove poi queste innovazioni ricadevano su tutti. Ecco, allora, più che l'applicazione in sé dell'auto autonoma, mi piace tutto questo fermento che c'è attorno, che consente poi di avere delle ricadute anche nelle PMI. Alla fine dei metodi, casomai, che loro sviluppano, ottimizzano, possono essere presi, estrapolati e applicati in una PMI. Un'ultima considerazione su quello che ci aspetta nei prossimi anni, che spesso viene definito come l'aspetto più negativo di questi sistemi che prenderanno sempre più il posto degli umani in molte attività. Qualche tempo fa leggevo un libro che era intitolato The Inevitable, l'inevitabile, e io penso che sia inevitabile che molte occupazioni che sono poco intelligenti, sono poco creative, sono molto ripetitive, quelle verranno fatte dalle macchine. E questo mi sembra inevitabile, qui parliamo di milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. È inevitabile, non sono bravo ad analizzare gli scenari futuri, non sono un guru, però quello che vediamo anche nella nostra piccola quotidianità, quindi già oggi, anche noi stessi con alcune applicazioni di robotizzazione dei processi, sicuramente rendiamo in modo istantaneo delle attività che casomai chiedevano delle giornate di applicazione di persone. Questo da una parte ci spaventa, dall'altra però vediamo che porta dei grandi benefici in azienda, perché le persone possono essere ricollocate a fare dei lavori con un valore aggiunto maggiore. E poi un'altra cosa che stiamo invece contemporaneamente monitorando, vedendo proprio su noi stessi, è la grandissima opportunità che c'è. Noi abbiamo un team di ragazzi di 21 anni che sono bravissimi, riescono a portare avanti dei progetti innovativi e quindi vedo che per i giovani c'è un'opportunità veramente elevata di avere delle nuove professionalità. E la cosa che mi preoccupa di più per il futuro, proprio legato un po' a questo aspetto, è l'istruzione, che almeno quello che monitoro qui sul nostro territorio fatica a inseguire, sia per i tempi che ci vogliono per formare questi ragazzi, sia un po' per la struttura classica che abbiamo, e vediamo che c'è un forte gap. E quindi questa è l'unica cosa che forse la vera sfida sarà questa, quindi riorganizzare tutto una formazione che possa permettere ai ragazzi di entrare in questo mercato di sviluppo che comunque dovrà essere sempre governato e gestito dalle persone, mi auguro. Fabio, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa che è la versione super podcast del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Potete contattarmi e scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.